Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Una serata da Valentina Furlan. Deve necessariamente Netto, scusate, la voce di Mattarella. La credibilità e la fiducia dei cittadini, così gravemente messa in dubbio da recenti fatti di cronaca, in amaro contrasto con l'alto livello morale delle figure che oggi ricordiamo. La documentazione raccolta dalla Procura della Repubblica di Perugia sembra presentare l'immagine di una magistratura china su se stessa, preoccupata di costruire consensi a uso interno finalizzati all'attribuzione di incarichi. Ancora buona serata da Valentina Furlanetto. Scusate il guasto tecnico, non mi sono capita con la regia, o meglio ho sbagliato io rispetto all'impostazione che avevamo dato all'apertura. Mattarella, l'avete sentito, il capo dello Stato ha parlato durante la cerimonia che commemora i magistrati uccisi dal terrorismo e dalla mafia, e le vicende emerse con il caso Palamara, ha detto, sono un amaro contrasto con l'opera di questi servitori dello Stato. Insomma, un attacco piuttosto duro del capo dello Stato. Parleremo di questo, ma andremo anche a Napoli dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus ieri sera. Ci sono stati festeggiamenti per questa importante vittoria, però chiaramente non c'è stato un distanziamento e questo fa preoccupare in questo momento di attenzione nei confronti del virus Covid. Andremo poi anche a New York a parlare con il nostro corrispondente di Trump, di questo libro che rischia di mettere in difficoltà il presidente americano. Ci occuperemo di Immuni e anche del Consiglio europeo di domani. Oggi è un'importante vigilia. 349-238-6666 per scriverci un WhatsApp o un SMS. Adesso invece andiamo ai nostri titoli. Governo da Mattarella alla vigilia del Consiglio europeo, dal capo dello Stato la sollecitazione a dare risposte concrete e rapide all'impiego dei fondi europei per la ripresa economica. Conte agli Stati Generali, con il piano di rilancio più forza a turismo e cultura arrivano le regole per ottenere il bonus vacanze. La Corte Suprema boccia Trump sui Dreamer, gli immigrati irregolari entrati nel paese minorenni, fucilate sui repubblicani, commenta il presidente. Bacchettate di Ranieri Guerra, dell'OMS ai napoletani dopo i caroselli per la vittoria della Coppa Italia. Sciagurati, ha detto. Ripartiamo dall'incontro tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il Governo alla vigilia del Consiglio europeo, dal Capo dello Stato l'invito a fare in fretta per dare risposte concrete. Riceve il Governo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per spronarlo all'utilizzo dei fondi europei. Salgono al Quirinale il Premier Giuseppe Conte, i ministri dell'Economia Roberto Gualtieri, degli Esteri Luigi Di Maio e degli Affari Europei Vincenzo Amendola. C'è la necessità di dare risposte concrete e in tempi rapidi ai nuovi fondi, dice il Quirinale. Tutto questo alla vigilia del Consiglio europeo che proseguirà la discussione sul Recovery Fund. A Villa Panfili intanto continuano gli incontri degli Stati Generali. Dopo le divisioni con Confindustria, il monito di Conte è quello di lavorare tutti insieme per meglio utilizzare i fondi europei. Di fronte a un paese che non ha mai dimostrato storicamente grandi capacità di spesa, dobbiamo sfruttare appieno questa opportunità. Se riusciamo a raggiungere l'obiettivo, sarà solo perché innanzitutto riusciremo a stringere un patto in cui tutti marciamo, il sistema Italia, verso questo obiettivo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul Consiglio europeo le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel. La cosa migliore sarebbe se si arrivasse a un accordo prima della pausa estiva, ha detto al Bundestag. Non dobbiamo permettere che la pandemia crei forti squilibri economici e che produca una divisione profonda in Europa, ha aggiunto la cancelliera. Premier Conte dunque da Mattarella, poi gli incontri nella quinta giornata degli Stati Generali dell'Economia. Stamattina protagonista la filiera alimentare. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti al microfono di Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Noi abbiamo chiesto un qualcosa che possa far ripartire i consumi per mettere più soldi nelle tasche dei consumatori e spenderne di meno quando andranno a comprare i prodotti dell'agricoltura. Abbiamo chiesto che sui prodotti dell'agricoltura che vengono venduti in grande distribuzione possa essere applicata l'aliquota più bassa, piuttosto che aumentare il cuneo fiscale a favore ovviamente dei lavoratori. Qui, se non facciamo ripartire velocemente il consumo in Italia, è evidente che la macchina che deve produrre gira a vuoto o gira a scarto minimo. Bonus turismo in arrivo. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato come ottenerlo e come utilizzarlo. Arrivano le regole per chiedere il bonus vacanze, la misura prevista dal decreto rilancio a favore delle famiglie con redditi ISEE non superiori a 40.000 euro. La richiesta, spiega l'Agenzia delle Entrate, potrà essere avanzata dal 1 luglio fino al 31 dicembre e dovrà essere destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed and breakfast. Se la famiglia è composta da almeno 3 persone, il bonus può arrivare a 500 euro, mentre il limite è di 300 euro in caso di 2 componenti e 150 se si tratta di un single. Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva. Per chiedere l'agevolazione bisognerà installare IO, l'app dei servizi pubblici resa disponibile da PagoPA. L'80% dell'agevolazione viene attribuita a un qualunque componente della famiglia sotto forma di sconto diretto al momento del pagamento del servizio turistico, mentre il restante 20% sarà portato in detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Alberto Magnani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'INPS non è una banca, non dà soldi al primo che passa, così il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, che ha snocciolato alcuni dati. Ad oggi il reddito di emergenza interessa circa 350.000 persone, mentre il bonus babysitter, ha detto, cumulato con il bonus centri estivi, interessa 400.000 famiglie. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c'erano già tracce del coronavirus a dicembre 2019, lo ha scoperto uno studio in via di pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità, realizzato attraverso l'analisi di acque di scarico raccolte in tempi antecedenti al manifestarsi dell'epidemia in Italia. E siamo proprio ai dati di oggi della protezione civile sul contagio. Sentiamo com'è andata nelle ultime 24 ore. Vittime 66, purtroppo in crescita in Italia, dove dopo settimane di cali sono aumentati nelle ultime 24 ore anche i ricoveri in terapia intensiva, che sono 5 in più di ieri. Dei 333 nuovi casi, 216 sono in Lombardia, dove i decessi sono stati 36, 31 in Piemonte, e ci sono due territori dove si rileva un picco rispetto ai giorni precedenti, come l'Emilia-Romagna, che ha registrato 32 nuovi contagi, o la provincia di Trento, che nell'ultimo giorno ne ha contati 8. Nuovi contagi che non hanno riguardato nelle ultime 24 ore solo 4 regioni, Val d'Aosta, Umbria, Molise e Basilicata. Intanto si apprende che il coronavirus circolava anche a Torino molto prima che all'ospedale Amedeo di Savoia arrivasse il 22 febbraio scorso il paziente 1 torinese. Se già parecchi casi di polmonite con caratteristiche compatibili a posteriori con la sintomatologia del Covid-19 erano stati riscontrati negli ospedali cittadini, la prova adesso arriva da uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'azienda torinese delle acque, in base al quale si evince che nelle acque di scarico dell'area metropolitana erano presenti tracce, poi ricondotte al Covid-19, già a partire dal 18 dicembre scorso. Controlli analoghi dell'ARPA fatti in precedenza, dopo che anche a Parigi erano state trovate tracce nella Senna, non hanno invece portato gli stessi risultati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi ricorderete la coppia di turisti cinesi che si erano ammalati di coronavirus a Roma, erano stati ricoverati, poi sono guariti allo Spallanzani. Ebbene, di oggi la notizia che hanno donato all'ospedale romano $40.000 per ringraziare l'Italia e i medici che hanno salvato loro la vita. Intanto stabilizzato il focolaio di coronavirus a Pechino, che ha anche un eroe. Pechino non sarà una nuova Wuhan. Il focolaio di Covid-19 registrato nella capitale ora è sotto controllo. A confermarlo Wu Zunyu, capo epidemiologo del Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie cinese. Ancora una volta un focolaio di coronavirus si è sviluppato in un grande mercato, quello all'ingrosso di Xinfadi, a sud-ovest di Pechino, ma in questa circostanza il tempestivo intervento delle autorità sanitarie ha bloccato efficacemente la diffusione dei contagi. L'epidemia ha raggiunto il picco e si è stabilizzata, ha ribadito il capo epidemiologo Wu. Ma se per il focolaio di Wuhan a lanciare l'allarme inascoltato fu un oculista 34enne diventato un simbolo della lotta al Covid-19 e morto il 7 febbraio scorso dopo 2 settimane in terapia intensiva, nella storia del focolaio di Pechino c'è un altro eroe. Si chiama Tang, ha 52 anni e la città intera lo ringrazia, mentre sui social viene chiamato affettuosamente zio Tang. È lui il paziente 1 che, andando in bici bici anziché con i mezzi pubblici a farsi fare il tampone in ospedale ha permesso infatti di identificare il nuovo focolaio di coronavirus a Pechino. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è polemica per i festeggiamenti nella notte per la vittoria del Napoli in Coppa Italia, vittoria senza alcuna attenzione alle precauzioni anticontagio. Tra poco ai nostri microfoni il sindaco di Napoli, De Magistris. Sulla morte in Egitto del giovane ricercatore Giulio Regeni, il tempo dell'attesa è finito, serve un segnale di svolta per fare luce definitivamente sulla vicenda. Così ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha inviato una lettera al suo omologo egiziano. Stasera il premier Conte riferirà alla commissione d'inchiesta. La Corte Suprema americana ha bloccato Trump sui Dreamers. Il commento del presidente americano è stato: queste decisioni orribili e politicamente motivate che arrivano dalla Corte Suprema sono fucilate in faccia alle persone che sono orgogliose di chiamarsi repubblicani o conservatori. Durante i nostri 60 minuti ci collegheremo anche con New York per parlare di questo e di altro con il corrispondente del Sole 24 Ore. Ma ora ci fermiamo per capire cosa sta succedendo sulle strade italiane tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Hai visto la nuova Fiat 500 X Sport? Nuovo colore grigio opaco, nuovi cerchi da 19 pollici, nuovo assetto sportivo. Ma non era un SUV? Nuova 500 X Sport. Totalmente SUV, totalmente sport. Gamma 500 X con zero anticipo e zero rate nel 2020. E poi da 14.700 euro oltre oneri finanziari con finanziamento anziché 16.400 euro. TAN 685, TAG 8.48. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Le concessionarie Fiat sono aperte e ti aspettano in tutta sicurezza. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Governo da Mattarella alla vigilia del Consiglio europeo, dal capo dello Stato la sollecitazione a dare risposte concrete e rapide all'impiego dei fondi europei per la ripresa economica. Conte agli Stati Generali, con il piano di rilancio più forza a turismo e cultura arrivano le regole per ottenere il bonus vacanze. La Corte Suprema boccia Trump sui Dreamer, gli immigrati irregolari entrati nel paese minorenni, fucilate sui repubblicani, commenta il presidente. Bacchettate di Ranieri Guerra dell'OMS ai napoletani dopo i caroselli per la vittoria della Coppa Italia. Sciagurati, ha detto. Ripartiamo dagli Stati Generali, siamo al quinto giorno a Villa Panfili, è stata la volta di associazioni di categoria come Confagricoltura, Confturismo, Confagri. Ognuna di loro ha esposto i problemi della categoria al governo, a Conte, che ha cercato di rassicurare soprattutto sull'identità turistica della nazione e sulla necessità di dare proprio dei fondi al turismo e alla cultura. Sentiamo allora proprio Conte. Il nostro paese è una delle, lo sapete, delle mete più ambite per quanto riguarda il turismo e abbiamo un primato dal punto di vista culturale, fa parte della nostra identità. In un piano di rilancio del paese sicuramente vi possiamo garantire la piena e convinta, determinata posizione del governo di rafforzare questi brand, rafforzare questi presidi strategici. Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera, benvenuto Alberto. Ciao, buonasera a tutti. Allora, abbiamo fatto sentire questa voce di Conte perché mi pare che uno dei nodi sui quali oggi si è battuto è quello del turismo, si è parlato anche di agricoltura, sono state fatte delle richieste specifiche dalle varie categorie, si continua a dire che questi incontri a Villa Panfili sono in realtà una passerella che contrasta un po' con fatti concreti che stentano a vedersi. Alberto, che impressione hai avuto della giornata di oggi? Ma insomma, nello stile di questi incontri di Villa Panfili, che hanno una modalità vagamente imperiale, diciamo così, stati generali, c'è una magniloquenza che è proprio in sé, nell'evento che è stato creato, tutto ad uso comunicativo, tutto incentrato sostanzialmente nella conferenza stampa che fa verso fine pomeriggio il Premier di sunto della giornata e naturalmente l'esito è sempre quello di una grande attenzione agli interlocutori che di giorno dopo giorno sfilano nel tavolone di Villa Pamphilj. Non può che essere così, in effetti, anche se sono formule che poi sono anche abbastanza banali, diciamo la verità, che l'Italia sia uno delle mete più ambite per il turismo internazionale, che il turismo sia importante, che il governo farà tutto quello che è in sua possibilità per aiutare il settore, mi sembra il minimo sindacale. Ecco, poi bisognerà articolare delle proposte e tentare di mettere a punto qualcosa di strategico che possa compenetrarsi con le esigenze degli altri settori, disegnare un'idea di paese di qui a 10 anni, che sarà tutto molto molto molto più complicato. C'è stato anche l'importante incontro con il capo dello Stato Mattarella alla vigilia proprio del Consiglio europeo. Il capo dello Stato ha incontrato Conte, ha sollecitato a dare risposte concrete e rapide all'impiego dei fondi europei per la ripresa economica e ci è andato pesante sulla questione magistratura. Sì, diciamo così, il Mattarella pensiero di oggi è diviso in due per l'appunto. Uno, una grossa sollecitazione al governo appunto di portare a casa dei fatti, di essere stringente, di essere rapido nella messa a punto di un piano d'azione, come si diceva appunto, che possa traguardare un obiettivo strategico di lungo periodo, che possa ridisegnare la nuova Italia, vista l'opportunità che l'Europa ci darà di poter gestire una quantità veramente inusitata e inedita di denari, gran parte dei quali saranno addirittura a fondo perduto. Quindi davvero l'Italia ha davanti a sé un'opportunità incredibile, storica. Deve solo, come dire, andare a lezione e imparare come spenderli questi denari, visto che il nostro punto debole, soprattutto nella spesa dei fondi europei, è sempre stato quello dell'incapacità progettuale, l'incapacità di avere, come dire, la fantasia e l'operatività di rendere esecutivi i progetti e di poter attingere effettivamente a quei denari. E questo è il primo pensiero che Mattarella ha detto con una certa forza, indirizzandolo ai lavori di Villa Pamphilj. L'altro, durante, per la verità, durante appunto l'incontro che si fa sempre in previsione del summit formale del Consiglio europeo, che ci sarà per l'appunto domani e che ha all'ordine del giorno il Recovery Fund. L'altro è Mattarella con il discorso durante il ricordo dei magistrati caduti sotto i colpi del terrorismo e della criminalità organizzata, dove non è stato affatto tenero con le responsabilità che ha il CSM, con le responsabilità che ha il CSM diviso in correnti, con le infiltrazioni della politica, le commistioni tra politica e esigenze della giustizia spettacolo, della tentativo di forzatura dei dettati costituzionali anche nell'attribuire al presidente poteri che non ha. Insomma, è stato molto molto severo e ha richiamato i giudici alla loro sobria funzione di amministrazione di una delle funzioni principali di una democrazia moderna e per l'appunto previste dalla stessa Carta Costituzionale. Allora sentiamolo proprio Mattarella in occasione, come diceva, del ricordo dei magistrati uccisi dal terrorismo e dalla mafia, quando ha parlato dell'anno difficile per la magistratura italiana. In quest'anno così difficile per la magistratura italiana cade il 40° anniversario dell'uccisione di Nicola Giacombi, di Romolo Minervini, Guido Galli, Mario Amato, Gaetano Costa e il trentennale dell'assassino di Rosario Livatino. Hanno svolto la loro attività con coerenza e con autentico rigore, senza rincorrere consenso, ma applicando la legge, fedeli soltanto alla Costituzione. È questa l'unica fedeltà richiesta ai servitori dello Stato. Insomma, come dicevamo all'inizio, Mattarella è stato abbastanza duro, il caso, insomma, che getta un'ombra su questo discorso, o meglio, questo discorso dà per assodato il fatto che gli ascoltatori che sappiano della questione che intorno a Palamara, il magistrato che è indagato per corruzione, l'ipotesi che il magistrato romano abbia favorito o tentato di favorire alcune nomine in cambio di vantaggi, soldi, viaggi, regali, la procura di Perugia ora indaga su questo e anche su questo, insomma, c'è un grande dibattito in Italia. Devo dire, il capo dello Stato è stato molto duro. forse anche a sorpresa, Alberto, cosa dici? Chiedo scusa. Sì, a prescindere dalla vicenda in sé, effettivamente il Presidente della Repubblica ha colto l'occasione per riportare il ruolo della funzione giurisdizionale, insomma il ruolo della magistratura all'interno dei paletti della Costituzione, del ring operativo che la stessa Costituzione attribuisce a questa importantissima funzione, e ha fatto un richiamo di quelli che fa lui, insomma ha un'idea di sobrietà, di senso di servizio alla democrazia, al paese, nell'esercizio delle proprie funzioni. Lo ha fatto tra l'altro nel commemorare magistrati eroi, come si suol dire con una banalizzazione, ma che hanno svolto il loro lavoro con grande coraggio, ben sapendo che rischiavano, e rischiavano molto, insomma. E quindi ecco, rispetto a quel tipo di ricordo, a quel tipo di memoria, a quel tipo di esercizio della propria funzione professionale e pubblica, direi, ecco, arrivare alle brutte cose che le intercettazioni telefoniche, per quanto sommarie, eccetera, ci hanno rimandato in questi giorni, ci fa capire quale sia la differenza nello svolgere con rettitudine il proprio lavoro e nello svolgerlo in modo un po' più disinvolto, come sono purtroppo molto più disinvolti i tempi che stiamo vivendo anche per molti altri ambiti professionali. Alberto, torniamo invece alla vigilia del Consiglio europeo di domani. Dicevamo, questo monito del Presidente della Repubblica a utilizzare i fondi, come tu dicevi, in realtà l'Italia in questa si è fatta bacchettare più volte ad oggi dei fondi strutturali europei stanziati a favore dell'Italia nel bilancio 2014-2020. C'è stata una parte di questi fondi che non sono stati utilizzati, peggio di noi in Europa ha fatto solo la Romania, quindi in questo non abbiamo un curriculum specchiato. Conte però oggi ha detto: siamo pronti a utilizzare questi fondi europei. Sentiamolo. Dobbiamo vedere un attimo di creare l'opportunità di un intervento anche più immediato, perché non possiamo certo aspettare il recovery fund europeo e i programmi europei. Sono fondi destinati poi a svilupparsi dal 2021 in poi, quindi grandi investimenti, grandi programmi rispetto ai quali dobbiamo farci trovare pronti, perché possiamo veramente costruire delle belle cose molto interessanti anche con di grande impatto. Il rischio però, Alberto, è che questi fondi arrivino un po' tardi per l'economia, per dare fiato all'economia. Il rischio è che si stia creando una bolla di aspettative che, come dire, ha un'esigenza immediata in nome proprio del presentismo social, diciamo così, del tempo reale. E sono aspettative enormi perché, ripeto, sappiamo tutti come cittadini che sta per arrivare in Italia una quantità inimmaginabile di denari. Però poi ci sono i meccanismi di erogazione effettivi, che sono poi quelli delle liturgie europee, per quanto semplificate e accelerate in questa fase di gestione della pandemia, ma che si dispiegheranno in abbinata al prossimo bilancio settennale molto ampliato dell'Unione Europea, quindi dal 2021 in poi, con tranche annuali, quindi non con tutto i 170 miliardi attesi, tutti dispiegati in pochi mesi, ma naturalmente nel giro di qualche anno. Tra l'altro bisogna ricordare che i fondi eventualmente anticipabili, come è già stato detto più volte in queste preliminari trattative del Recovery Fund, per tutti i paesi saranno poco più che una dozzina di miliardi, quindi un non nulla se ridiviso tra i 27, quindi bisogna stare molto attenti a graduare l'entità delle aspettative, la velocità di esecuzione dei progetti e l'effettiva messa a disposizione dei finanziamenti. Forse anche per quello che non è sbagliato attingere al MES, che invece è l'unico fondo, per quanto controverso, oggetto di dispute politiche, ideologiche, ai limiti del ridicolo in Italia, però è l'unico che potrebbe effettivamente essere messo in campo ed essere attinto immediatamente, insomma. E grazie. Come sappiamo sono 37 miliardi. Grazie ad Alberto Rioli. Grazie a voi. Torneremo a parlare del Consiglio europeo più dal punto di vista delle dinamiche fra gli stati tra poco, ma ci fermiamo per il meteo e andremo anche a Napoli, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ieri sera abbiamo parlato con Dario Ricci in collegamento della Coppa Italia, della vittoria del Napoli sulla Juventus, una vittoria che ha fatto scendere in piazza i napoletani che hanno iniziato a festeggiare. Sentiamoli. Forza Napoli, è più forte del Covid! Ma è sempre un piacere per il Napoli contro la Juve e pure contro il Covid, balordo e mediocre. Questi erano i napoletani per strada ieri sera, i festeggiamenti, come abbiamo detto. Abbiamo in collegamento Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Buona serata. Buona serata a voi. Allora, sindaco, in realtà sono stati festeggiamenti legittimi per la vittoria, ma comportamenti sbagliatissimi. Così ha detto Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, e vi ha bacchettato anche il direttore aggiunto all'OMS, Ranieri Guerra, ha detto sciagurati. In realtà, presi dall'entusiasmo per la vittoria, i napoletani non hanno mantenuto le distanze, e questo in un periodo così difficile per il coronavirus ha fatto preoccupare moltissimo gli italiani. Lei ha parlato di un contagio di felicità. Non le sembra un commento un po' irrispettoso in questo momento? Ma guardi, quella è una battuta. Che ieri abbia vinto il contagio di felicità, consentitemelo di dire, a una città che per prima ha chiuso le scuole, ha chiuso i cantieri, ha sanificato prima che lo decidesse il governo, che i napoletani sono stati esemplari nel lockdown, su 1 milione di abitanti abbiamo avuto 100 morti e mille casi positivi, abbiamo meno morti dell'anno scorso, abbiamo 0 contagi dal 1 giugno. Io credo che chi non si immaginasse una cosa di quella è un ipocrita. Allora, il governo doveva vietare la finale, perché nessuno può immaginare che una città di 1 milione di abitanti, dove il tifo, cioè solo un non napoletano, ma penso vale anche per un romanista, anche per un'altra città, ma che si pensava, che la gente rimaneva in casa? Poi questo non vuol dire che giustifico tutto, ci sono stati anche comportamenti sbagliati ieri. Poi ne parleremo ad esempio dei beni monumentali che sono stati deturpati. Un po' dall'ipocrisia, perché io sento ancora domande certe volte che mi vengono fatte, sindaco, ma lei ha visto che ci sono tanti giovani in città che camminano? Ma io non so, è una domanda questa qua. Cioè, ormai siamo in un'altra fase, il lockdown è finito. Noi abbiamo ancora l'obbligo delle mascherine in una città dove il contagio non c'è più. Quindi la gente si sta continuando ad organizzare bene. Poi ci sono degli errori, sono degli errori. Però io penso che era più corretto allora dire che non si giocava. Più intelligente. Per esempio, io non comprendo perché negli stadi non si possa andare. Perché non si può andare negli stadi col distanziamento? Sono 50.000 posti, perché 10.000 persone non possono andare, 20.000 persone non possono andare? E poi abbiamo ordinanze che ci vietano di prendere il gelato alle 22.05 all'esterno, però si può prendere all'interno del locale, ordinanze regionali. Sentiamo, Napoli, sindaco, assieme la voce di Ranieri Guerra. Sciagurati, cosa vuole che le dica? In questo momento non ce lo possiamo permettere. Non vorrei che riprendessimo proprio nel momento in cui il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte della Federazione Gioco Calcio per non limitare al massimo, come sarebbe invece suggerito da scienza e coscienza medica, tutto quello che è l'indotto del calcio nel nostro paese. Però fa veramente male vedere queste immagini. La politica ha un po' strumentalizzato, devo dire, questa situazione. Matteo Salvini ha incalzato il governatore De Luca, sentiamolo. Mi domando dov'era il signor De Luca, quello che era pronto a usare i bazooka contro i milanesi e contro gli italiani che andavano in giro per Napoli e per la Campania. Allora, sindaco, lei diceva in questo momento il lockdown non c'è più, e ha fatto notare che le sono dispiaciuti invece degli atti di vandalismo, danneggiamenti registrati ai beni monumentali, alla Fontana del Carciofo in Piazza Trieste, Trento. Quindi più che il distanziamento, lei era preoccupato per questi atti? Innanzitutto questo dottore Guerra, ma vorrei capire se lui ne capisce pure un po' di psicologia individuale e collettiva, perché ripeto, qualcuno può immaginare in Italia che dopo una finale non ci siano i tifosi che scendono le strade? Io questo sinceramente mi sento, io lo dire, altrimenti siamo tutti ipocriti, facciamo la sagra di quelli che si mettono a posto la pratica e per ragioni economiche hanno detto riprendiamo il calcio. Allora era più corretto, più coraggioso, più sensato, visto che ci fanno la morale a tutti, dove stiamo noi in prima linea, che doveva andare la polizia col battipanni a separare lanciafiamme su... Lei se l'aspettava, sindaco, questa situazione? Ma questo sarebbe accaduto in qualsiasi altra città vincendo una gomma, sicuro. Io non mi ha meravigliato, io personalmente non sono sceso, perché poi ognuno ha chiaramente i suoi comportamenti, ma non mi meraviglia, non mi meraviglia, come non mi meraviglia che le persone stanno incominciando a uscire. Cioè noi ci dobbiamo preoccupare che in questo momento in una città come Napoli possiamo avere più morti per l'epidemia sociale, economica e lavorativa che per il coronavirus. Che aspettiamo che arrivi il vaccino, che non sappiamo quando arriverà? Noi dobbiamo coniugare cautela, responsabilità, attenzioni con una ripresa della vita, e la ripresa della vita è fatta anche di questo. Allora, se questo riteniamo che non siamo in grado di gestirlo, si sospendeva il campionato fino a settembre, ma era impensabile ritenere che la gente scende. Invece mi è dispiaciuto che alcuni tifosi, invece di festeggiare solamente, hanno per esempio vandalizzato. Questo anche accade, è accaduto altre volte, ma questo mi ferisce, perché io credo che il tifoso della squadra deve essere innanzitutto tifoso della città. Grazie sindaco, buona serata. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. E noi veniamo a parlare nuovamente del Consiglio europeo da un punto di vista delle dinamiche fra i paesi europei. L'Unione resta spaccata con i paesi frugali, Olanda, Austria, Svezia e Danimarca, che non perdono occasione per rimarcare inflessibili le loro linee rosse. Una parte dei paesi di Visegrad, Ungheria, Repubblica Ceca, si sono fatti più espliciti nelle critiche. Sergio Nava, buonasera. Ciao Valentina. Allora, tu segui sempre per Radio 24 l'Europa, anche domani ci racconterai come andrà questo Consiglio europeo, che sembrerebbe un Consiglio europeo interlocutorio, quindi non si deciderà domani, no? Sì, assolutamente sì, nel senso che è già chiaro, lo hanno già detto tutti i leader e i commissari coinvolti, che domani sarà solo una prima, sarà solo un primo giro di discussione, anche per una modalità semplicemente pratica, perché sarà probabilmente l'ultimo Consiglio europeo in videoconferenza. In questi mesi di pandemia i leader europei non si sono mai riuniti di persona. L'idea è quella domani di come dire, marcare un po' le posizioni, cercare di definire il terreno di scontro, se vogliamo, e poi rimandare le decisioni vere e proprie, se tutto va bene, nella prima metà di luglio, e forse poi addirittura ci potrebbero essere ulteriori supplementari a fine luglio, un ulteriore vertice a fine luglio, e c'è anche chi non esclude che poi la pratica finisca addirittura dopo l'estate, questa nella peggiore delle ipotesi, perché alla fine ritarderebbe tutto, perché non solo bisogna trovare accordo, poi bisogna in qualche modo anche farlo approvare a livello nazionale, poi bisogna stendere regolamenti, direttive, cioè è un'operazione veramente complessa, che comporta poi anche la stesura di programmi di ripresa nazionali, come l'Italia tra l'altro ci sta già pensando, vorrebbe giocare d'anticipo e presentarlo a settembre, che poi dovrebbero essere vagliati dalla Commissione europea altri 3-4 mesi. Insomma, chiaramente è un recovery fund, ma ha dei tempi non differenti. E le posizioni dei paesi europei sono di nuovo quelle? Sono rigide, sono cristallizzate, oppure qualcosa è mutato nelle ultime ore, negli ultimi giorni? Allora, la pretattica insegna che di qualsiasi vertice negli ultimi 20 anni, anche di più, e di qualsiasi trattativa abbiamo visto a Bruxelles, si arriva bene o male con la lancia in resta e si cerca di tenere il punto. È chiaro che tutti sono ben consci del fatto che non si può andare avanti all'infinito a trattare, perché siamo di fronte a una crisi economica senza precedenti e l'Europa deve uscire in qualche modo con una risposta. È anche vero che ognuno cercherà di guadagnare il più possibile. Allora, già gli schieramenti li hai delineati tu. Abbiamo un fronte del nord che non vuole sentire parlare di diciamo sovvenzioni, di aiuti a fondo perduto, perché il progetto, ricordiamo, della Commissione europea è molto ambizioso e sostanzialmente metterebbe sul piatto 500 miliardi di aiuti a fondo perduto, che poi andranno di fatto finanziati attraverso diciamo un embrione di Eurobond che la Commissione va poi a raccogliere sui mercati usando come garanzia il budget comunitario e poi ripagherà dal 2028. Questo fronte, insomma, è molto osteggiato qui nel sud dell'Europa, da noi, noi italiani compresi. Va anche detto che è un fronte che sicuramente ha il torto di insistere sui prestiti. Siamo in una situazione eccezionale, continuare a insistere con i prestiti forse è un po' troppo. però sicuramente vuole, anche sulla base diciamo dell'esperienza, vuole che questi soldi poi siano anche un volano di riforme strutturali e competitive, e in questo noi italiani non siamo proprio maestri. Poi c'è il fronte dei paesi dell'est, ecco, forse paradossalmente è quello più egoista, perché è molto sotto traccia, ma se pensiamo a Ungheria e Polonia, per esempio, sono paesi che si stanno facendo beffe dello Stato di diritto da anni. In Ungheria hanno inventato anche appunto questa democrazia illiberale, continuano a ricevere soldi a pioggia, miliardi a pioggia dall'Europa, perché chiaramente arrivavano da una situazione di PIL pro capite inferiore rispetto a noi, non rispettando molti valori fondamentali dello Stato di diritto, e ora però dicono, però tutti questi soldi vanno, la maggior parte di questi soldi andrebbe ai paesi mediterranei perché sono più colpiti dalla crisi, però noi siamo più poveri, allora vogliamo anche noi più soldi, togliendoli di fatto ai paesi più colpiti dalla crisi. Quindi potrebbero fare l'ago della bilancia, esatto. Anche se piccoli. Grazie a Sergio Nava per questo approfondimento, che continuerà domani chiaramente con il Consiglio europeo. Buona serata. Ciao. E noi ci fermiamo per il traffico, ma poi parliamo della app Immuni e andiamo anche negli Stati Uniti. Hai visto il mio nuovo Xiaomi Mi 10? Ha la fotocamera da 108 megapixel e fai video in 8K. Ah, vediamo. Ma guarda questo, è Luca sulla moto d'acqua. Che dettagli, le onde, gli spruzzi, è Luca che cade in acqua. Ora lo condivido e in un attimo lo vedranno tutti. Ho la rete top quality Wind 3. Guarda l'estate in modo nuovo. Con Wind 3 Unlimited puoi avere Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Lite con giga illimitati. Da 1,99€ in più al mese, anche con anticipo zero. Per info, anticipi, metodo di pagamento, costi e termini dell'offerta, ti aspettiamo nei Wind 3 Store. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Da qualche giorno, da lunedì esattamente, è possibile scaricare l'applicazione Immuni in tutto il territorio nazionale. Il download dell'app è stato fatto da 3 milioni di italiani. Buona serata Enrico Pagliarini. Buonasera a voi, ciao, ciao Valentina. Ciao Enrico. Allora, ti chiamiamo per capire, innanzitutto, sono pochi, sono tanti i 3 milioni di italiani che l'hanno scaricata? Sono abbastanza per poter interagire gli uni con gli altri e avere delle segnalazioni? E poi, visto che è uscita questa notizia che potremo usare l'app Immuni anche all'estero, perché questa app può in qualche maniera avere un contatto con le app degli altri paesi e segnalare se siamo in contatto con un positivo, questa notizia ci deve confortare sui nostri viaggi quest'estate? Questo sicuramente, ma ci arriviamo tra un minuto. Allora, diciamo che 3 milioni di download sono ancora pochi, ma siamo solo all'inizio. Teniamo conto che questa applicazione, nella migliore delle ipotesi, comincerà a funzionare, cioè nel senso funziona già oggi, ma comincerà a funzionare quando qualche milione di persone ce l'avrà, e quindi possiamo aspettarci questo fra alcune settimane, alcuni mesi. Dobbiamo prepararci alla eventuale, speriamo non avvenga, seconda ondata, quindi per l'autunno. Certo è che consigliamo a tutti di scaricarla già oggi. È già funzionante l'applicazione, si può scaricare da chi ha un iPhone dalla versione 13.5 del sistema operativo in su, e anche da chi ha telefoni Android che hanno una versione 6 o superiore al 6. Quella che tu dicevi è una buona notizia, nel senso che questa applicazione fatta, o meglio tutte le applicazioni fatte sullo schema e sulla tecnologia che è stata messa a disposizione da Google e da Apple, queste applicazioni possono interagire tra di loro, però è meglio che usiamo il verbo al futuro, perché i sistemi sanitari dei vari paesi devono parlarsi tra di loro, quindi attualmente questo non succede ancora. Teniamo conto che l'Italia è stato uno dei primissimi paesi a lanciare questa applicazione. Questa settimana è partita la Germania, quindi se utilizziamo la Germania come... Con un certo successo anche, no? Sì, i tedeschi, che sono spesso molto informati, quindi hanno capito benissimo che questa applicazione può essere utile, l'hanno già scaricata in più di 6 milioni. Sono stati molto bravi, come spesso accade. Poi ricordiamo anche che l'applicazione è un pezzettino di un puzzle più vasto, quindi noi stiamo parlando di questa applicazione, ma poi dobbiamo tenere in considerazione il fatto che l'applicazione poi ad un certo punto finisce con l'eventualità, se uno appunto dovesse star male, di un tampone. E a quel poi, punto entrano in scena le regioni, la sanità. Esatto. Poi ovviamente dal tampone, una volta che uno fa il tampone, se risulta positivo, puoi decidere volontariamente se attivare quel meccanismo che, con il quale avvisare tutte le persone con cui ha avuto contatti giudicati a rischio. Ricordiamo che i contatti giudicati a rischio, secondo normativa europea, sono quelli a meno di 2 metri per almeno 15 minuti. Le applicazioni si parlano tra di loro, si scambiano codici anonimi, sono codici alfanumerici, incomprensibili e che sono privi di significato. Nel momento in cui uno dovesse risultare positivo, può decidere volontariamente di, comunicandolo con le autorità sanitarie, di sbloccare un codice. Da lì, appunto, viene sparato nell'etere, comunque attraverso i server della pubblica amministrazione, tutti i codici alfanumerici che lui si è scambiato con le persone con cui è stato a contatto. A quel punto, tutte le applicazioni, tutti i giorni, scaricano questa lista di codici e l'applicazione dice: ah, guarda, quel codice è un codice che io mi sono scambiato con qualcuno, non so con chi, ma se la mia applicazione vede quel codice può capire di essere stata vicina. Quindi se è l'applicazione, di solito ci sono anche io assieme al telefono, io sono stato vicino ad una persona che è risultata positiva. Perfetto, grazie Enrico, grazie. Grazie a voi, buona serata, ciao. E ora passiamo a parlare velocemente di Stati Uniti. Sentite questa voce che vi facciamo ascoltare e poi vi spieghiamo chi è. Credo che Putin pensi di maneggiare Trump come un violino da suonare. Ritengo Putin un uomo molto intelligente, istruito. Credo pensi che Trump non è un avversario serio. Non credo che lo tema. I don't think he's worried about Donald Trump. John Bolton, ex segretario alla sicurezza nazionale di Trump, evidentemente non aveva solo sassolini nelle scarpe ma veri e propri macigni. Ha scritto un libro che il presidente Trump sta cercando di fermare, la cui pubblicazione sta cercando di fermare. Abbiamo in collegamento da New York Marco Valsania per parlarne. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Allora Marco, velocemente perché siamo in chiusura, questa notizia insieme alla Corte Suprema degli Stati Uniti che ha deciso di bloccare il tentativo di Trump di porre fine alla legislazione che protegge i Dreamer sono due begli schiaffi, no, a Trump? Sì, ce n'è stato anche un terzo proprio poco fa. Facebook, che finora aveva tollerato molte dei messaggi, diciamo, provocatori di Trump, ha cancellato delle pubblicità della campagna di Trump accusandolo di aver usato simboli nazisti e di fatto aveva usato un triangolo capovolto rosso che veniva utilizzato nei campi di concentramento per identificare i prigionieri politici dalle SS. L'ha utilizzato in una pubblicità contro il movimento, diciamo, di sinistra Antifa, in cui chiede appunto che venga dichiarato un movimento terrorista, un'organizzazione terrorista, ma appunto l'ha fatto utilizzando diciamo simboli storici nazisti. Quindi questo è un ulteriore schiaffo dopo quelli che già ricordavi, cioè la Corte Suprema che ha bocciato la richiesta dell'amministrazione Trump di eliminare, di cancellare il programma DACA che consente ai Dreamers, cioè agli immigrati illegali che erano arrivati negli Stati Uniti però da bambini, da neonati, di rimanere, e che Trump si era impegnato invece a espellere, diciamo, rapidamente oltre quasi 800.000 immigrati, e alla pubblicazione del tomo prossima, imminente, del tomo di John Bolton, ormai già nelle mani dei media americani e di cui hanno pubblicato ampi stralci, e che appunto denuncia un presidente prono a usare il potere per fini personali e anche a chiedere aiuto a potenze straniere. In questo caso la rivelazione è la Cina, Xi Jinping, al quale Trump avrebbe chiesto aiuto per farsi rieleggere sotto forma di acquisti di beni agricoli, soia e grano, dicendogli esplicitamente: Xi, aiutami, perché così, se compri queste derrate agricole, io vinco il voto degli agricoltori americani. Insomma, due batoste rurali. Che andremo quindi a vedere, diciamo, che effetto non avranno sulle future elezioni, no? Grazie. Esatto, difficile ancora da sapere, ma sicuramente è possibile che abbiano un impatto. Che spostino dei voti. Grazie a Marco Valsania da New York, grazie anche in redazione a Jacopo De Franchi, a Matteo Ramelli, in regia Valeria Bernardi. Buona serata, ci sentiamo domani, adesso il GR delle 22.